Adesso Alessandro Milan vi leggerà il giornale. Dai, pronti? Sentiamo cosa è successo oggi, dai. Andiamo Milan, andiamo, dai, dai. Va bene, ok, sono qui, io sono qui dalle 5:30, caro ascoltatore, tu dove sei? Dove sei dalle 5:30? Allora, le aperture di questo giovedì 13 luglio del Sole 24 Ore, dissipati i rischi di sistema NPL, cioè non performing loans, all'8% entro un anno, questo è quello che dice il governatore di Banca Italia, Visco. Ed è l'apertura del Sole. Per il Corriere della Sera, la politica: Renzi in trincea contro tutti, attacca Banca Italia e su Letta dice il mio non fu un golpe. La replica di Letta è da psicanalisi. Repubblica: migranti, no di Macron all'Italia, l'Europa tiene chiusi i porti. Anche Avvenire apre su questo tema, migranti più a rischio, i nuovi limiti per l'ONG, così vite in pericolo. Il Messaggero ha un sondaggio Euromedia, il 58,7% è informato sullo Ius Soli, il 53,1% è contrario. Titolo di prima pagina, gli italiani bocciano lo Ius Soli. Per la Stampa, la rivolta dei professori, stipendi fermi da 6 anni, blocchiamo l'università. È la cosa di cui abbiamo parlato, la notizia di cui abbiamo parlato 2 giorni fa in rassegna stampa. Per la Stampa ora è l'apertura. Il Fatto Quotidiano, grandi riforme, l'Italia brucia, 28 elicotteri a terra e solo 4 in volo, caos, vigili del fuoco, carabinieri. L'Italia brucia, il titolo anche del Giorno, mentre Libero, a Napoli si bruciano da soli, altro che incolpare lo Stato assente. La Verità invece, le ultime bugie sui vaccini, per il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Ricciardi, gli immigrati che arrivano sono più immunizzati di noi, ma i dati lo smentiscono e c'è il problema dell'HIV. L'apertura invece del Manifesto, banchi del mutuo soccorso, passa alla Camera il decreto sulle banche venete che Padova nell'Unione Europea volevano intoccabile, e questa è l'accusa del Manifesto. A proposito di migranti, c'è stato questo trilaterale, chiamiamolo così, tra Francia, Germania e Italia, a bordo della marina militare nave Palinuro a Trieste, e non è che abbia sortito grandi effetti, grandi aperture, soprattutto dal presidente francese Macron, che ha ribadito, come racconta Carlo Marroni a pagina 6 del Sole 24 Ore, tra l'altro arrivando mezz'ora di ritardo, mentre Angela Merkel puntuale, tedesca puntuale, Macron invece con mezz'ora di ritardo è arrivato. Ebbene, cosa ha detto Macron? Noi faremo la nostra parte in questa lotta, è un dovere, ma non possiamo accogliere uomini e donne che per motivi economici arrivano nei nostri paesi. Questi e quelli, cioè migranti economici e rifugiati, che chiedono asilo, sono due realtà diverse e non cederò a questo spirito di confusione imperante, dice senza tentennamenti Macron. Ecco dunque che la linea espressa anche dai vari giornali, anche la linea Gentiloni, è sui migranti, progressi insufficienti, il premier con Merkel e Macron, questa è la frase di Gentiloni, progressi insufficienti, è un modo per dire che non è proprio andata benissimo, eh? Tra l'altro il Giornale fa notare, lo conferma anche Frontex, ci teniamo tutti gli immigrati, nessun partner europeo è disposto ad aprire i porti. Questo ha detto Legerie, francese, capo di Frontex, la revisione di Triton va concordata dall'Italia con Frontex e con i paesi membri, ma all'unanimità. E il direttore di Frontex ha fatto sapere che questa unanimità dei paesi europei proprio non c'è. E allora sul fronte immigrazione la partita rimane molto dura. Cosa sta succedendo, tra l'altro? Attenzione, perché questa mancanza di unità europea, questa mancanza di collaborazione, poi partorisce iniziative come queste. Anna Lombardi ne scrive a pagina 3 di Repubblica, partirà da lunedì una nave, ma non è una nave come quella dell'ONG che vogliono salvare i migranti, questa è una nave dell'organizzazione di destra nata in Francia, Defend Europe, cioè difendere l'Europa, e Generazione Identitaria, questo è il manifesto in versione italiana, è una nave di questo movimento di estrema destra che da lunedì sarà a largo nel Mediterraneo, a largo della Libia, per cercare di bloccare le navi dei migranti. Eccolo qui, in arrivo la nave dell'ultradestra, bloccheremo i clandestini in Libia. Anna Lombardi, pagina 3 di Repubblica. Dicono di voler salvare vite umane e insieme salvare l'Europa, ma la loro non è una missione umanitaria. La settimana prossima saranno a largo della Libia con una barca di 40 metri per impedire ai migranti di raggiungere l'Italia. Ennesima provocazione del movimento di estrema destra Generazione Identitaria con ramificazioni in tutta Europa. Lo scorso maggio fecero un blitz nel porto di Catania insieme alla giornalista canadese ultraconservatrice Lauren Southern, bloccando per diverse ore l'attività dell'Aquarius, nave di SOS Mediterranee. Ora il portavoce italiano Lorenzo Fiato, milanese, 23 anni, studente di scienze politiche, dice: bloccheremo le barche dei clandestini impedendogli di toccare le coste italiane fin quando la costiera libica non verrà a prenderseli per portarli indietro. Ecco, dico, di fronte a un'Europa che non decide, poi ci sono situazioni come queste. Il rischio di fare la battaglia navale, ma non figurata come si faceva alle medie durante le lezioni per non studiare o al liceo, ma vera, sulla pelle di vite umane vere. Questo da settimana prossima. In tutto questo, se veniamo alla polemica parlamentare, c'è una bufera politica dopo che Massimo Corsaro, deputato di Direzione Italia, ha insultato Emanuele Fiano, Partito Democratico. Emanuele Fiano, che è portatore di quella legge per rendere penalmente perseguibile la propaganda fascista e nazifascista. Cosa ha scritto Corsaro su Twitter? Porta le sopracciglia così, riferito a Fiano, per coprire i segni della circoncisione. Un modo davvero volgare per insultarlo, cioè per dargli della testa di. Il problema che si riferisce alle origini, alla natura, alla religione ebraica, al fatto di Fiano di essere ebreo. Il problema, che forse Corsaro non sa, ma lo sa sicuramente, che il padre di Emanuele Fiano, l'abbiamo detto tante volte, Nedo Fiano, è sopravvissuto ad Auschwitz e tutta la sua famiglia è stata sterminata ad Auschwitz, e allora non si può toccare un argomento del genere per fare un volgare stupido tweet pensando che questa cosa, voglio dire, possa passare così. Ed ecco allora Emanuele Fiano che dice: non stringerò mai più la mano all'onorevole Corsaro. Alla Camera non mi era mai successo, altrove ci sono abituato, in Italia il fascismo esiste, ma in Parlamento da 11 anni non era mai accaduto una cosa del genere. Ci sono state una serie di critiche dopo il mio provvedimento, alcune legittime, anche utili al miglioramento della legge, altre inaccettabili, poi una marea di insulti e anche qualche minaccia. Sono critiche che rispetto, quelli che dicono la mia legge è sbagliata perché c'è la libertà di opinione. Non condivido queste idee, ma le rispetto. Io non voglio colpire le opinioni. Per me sono chi dice sono fascista e mussoliniano non deve essere perseguito. Le norme riguardano chi fa propaganda delle idee fasciste. E poi parla di minacce e questa vicenda di Corsaro, in qualche modo è un po' derubricata, anche se dice non gli stringerò mai più la mano. E va bene, la polemica, certo c'è, un tweet, come dire, infelice davvero è dire poco, vergognoso forse è meglio. Oh, in tutto questo siamo all'articolo che mi fa pensare della giornata, l'articolo, anche qui lo dico in modo sommesso, sapete che dico il premio mani sul volante, perché se siete alla guida, no, vi viene magari dalla rabbia di dare pugni al volante, invece no, mani ben salde, perché noi non paghiamo poi i volanti che voi spaccate per la rabbia. In questo caso però, ripeto, non è assolutamente riferito alla vicenda, visto che la vicenda riguarda un vigile urbano che fu travolto e ucciso in macchina dal SUV guidato da un giovane nomade, un rom, Remi Nikolic, 17 anni, forse ve lo ricordate, 2012, travolse e uccise l'agente di polizia locale Nicolò Savarino, poi scappò, venne ripescato in Ungheria. Tutti i giornali raccontano: Falciò vigile, scappò, Rom già libero. Bufera sul giudice, è una vergogna. In realtà non è proprio libero, è stato affidato ai servizi sociali. 17 anni quando compì questo omicidio volontario, poi fuggendo. Dopo 5 anni di carcere minorile al Beccaria di Milano, il giudice ha accolto l'istanza dell'avvocato David Russo e il giudice dei tribunali dei minorenni ha deciso la scarcerazione a 23 anni, scrivendo che è un ragazzo che ha mostrato un autentico bisogno di riparazione, pur nella consapevolezza dell'irreparabilità delle conseguenze del suo gravissimo gesto. E per carità, lo sappiamo tutti, è del compito fondamentale, uno dei compiti fondamentali del carcere, quello di rieducare, recuperare, reinserire nella società le persone che hanno sbagliato, magari dopo aver fatto loro scontare la pena giusta, adeguata. Ci si chiede se la pena giusta, adeguata sia 5 anni. Certo, era minore, anche questo incide. 5 anni dopo aver ucciso, travolto una persona e poi essere scappato. Quindi certo non uno che si è voluto consegnare alla giustizia dicendo scusate, ho sbagliato, ho fatto un errore. Eccola qui la rabbia del fratello, intervistato dal Giorno, il fratello della vittima, intervistato da Paolo Verri. Questa decisione istiga all'illegalità. È la dimostrazione che chiunque può uccidere un'altra persona e dopo 5 anni di nuovo è libero. Furioso, incredulo, così Rocco Savarino, fratello di Nicolò, l'agente di polizia locale, che durante un controllo nel gennaio 2012 è stato travolto dal SUV rubato da Remi Nikolic. Devo dire grazie alla giustizia italiana se questo ragazzo è libero di fare quel che vuole, dice il fratello. Noi eravamo solo parte offesa. Dagli accertamenti è risultato che Nikolic, che aveva ben 4 alias, non aveva ancora compiuto 18 anni. Non ci siamo nemmeno potuti costituire parte civile perché nel processo minorile non si può fare. Quindi non abbiamo potuto fare niente. Prego Dio che quel che è successo a noi accada a tutti quelli che hanno scritto queste leggi e creato questa situazione. Io capisco, insomma, è brutto, ma c'è la rabbia davvero senza freni del fratello, che appunto dice: auguro a tutti quelli che hanno permesso questa cosa che capiti la stessa vicenda. E certo, questa frase, questa decisione istiga i delinquenti, è una frase molto molto pesante. Falciò vigile, scappò, Rom già libero dopo 5 anni. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi cazzo! Alessandro Mina, il conduttore così morbido che si taglia con un grissino. E allora, eccoci qui. Siamo a parlare di che cosa, cari ascoltatori? Qui si beve in onda, nel senso acqua, state tranquilli, e quindi poi dopo va di traverso l'acqua. Allora, c'è ancora il tema sullo sfondo, la questione della proposta di Renzi di aumentare il deficit, arrivare ai limiti dei parametri di Maastricht 2.9 deficit PIL per qualche anno per liberare risorse. Oggi Francesco Verderami scrive un lungo pezzo sul Corriere della Sera, partire prima pagina, a raccontare l'irritazione del ministro dell'economia Padoan. La riforma non si può fare. La buona notizia da Bruxelles è giunta al termine di una giornata che per Padoan era iniziata con un leggero malore durante il suo discorso all'Assemblea dell'ABI, un mancamento dissimulato dietro un sorso d'acqua che aveva attribuito alle tensioni accumulate nel corso del negoziato a Bruxelles sul documento economico italiano. Negoziato faticoso, reso ancora più difficile dalla sortita di Renzi, cioè l'idea di congelare per 5 anni il deficit al 2,9% in modo da poter finanziare la crescita. La notizia del progetto aveva fatto scoppiare il pandemonio. Ecco qual è stato l'elemento scatenante della reazione di Padoan davanti ai media. L'epiteto, sapete che ha detto, l'abbiamo fatto sentire anche un ca, no? All'ennesima domanda, non è stato provocato dal pressing dei giornalisti che per 4 volte gli hanno chiesto lo conto del leader democratico e della sua idea. Il fatto è che la stessa domanda, il titolare di Via 20 Settembre, se l'ha sentita rivolgere a più riprese dai colleghi europei durante la riunione. E alla fine ha fatto boom, sdoganando a Bruxelles quella parolaccia che molti anni fa Dini aveva sdoganato da Presidente del Consiglio. E qui Verderami entra a raccontare un po' la rabbia anche di Padoan, i dubbi di Padoan su Renzi. Questa giustificazione, e cioè la questione che siamo vicini alla campagna elettorale, non basta a Padoan, anche perché se davvero le urne si apriranno solo alla scadenza naturale della legislatura, non capisce come mai Renzi abbia preso a contattare i rappresentanti delle istituzioni europee per assicurare la bontà del suo progetto, promettendo di inviare loro in via riservata alcuni studi economici che garantirebbero la sostenibilità della proposta. La sua idea invece del ministro dell'economia è questa, è un'idea che non si può realizzare. Comunque, racconta Verderami, è difficile questa navigazione per Padoan tra Scilla e Cariddi, tra l'esigenza del governo di ridurre il debito pubblico e il desiderio di Renzi di aumentare il suo consenso elettorale. Il ministro dell'economia comprende le necessità della politica. Quello che ancora non riesce a metabolizzare sono alcune dinamiche politiche, come le polemiche e le fughe in avanti. Ogni volta che accade ci soffre, quasi quanto una sconfitta della Roma. Vabbè, sapete che è un gran tifoso della Roma, ma certo si racconta in questo articolo di Francesco Verderami un po' tutto il dilemma anche di Pado, anche da una parte è un tecnico e poi deve portare avanti tutti i negoziati con l'Europa e dall'altra parte vede queste fughe in avanti, queste cose che minano un po' la credibilità dell'Italia, questo secondo lui. Tra l'altro, per rimanere in termini economici, Marco Ruffolo su Repubblica racconta che c'è il nodo previdenza e quel nodo, se decidere di salire a 67 anni dall'inizio del 2019 per l'età delle pensioni. Questo per adeguamenti Istat automatici, visto che aumenta l'aspettativa di vita. Ma Marco Ruffolo racconta: essere poveri significa avere un'aspettativa di vita minore del 23% di chi povero non è. Restare single vuol dire averne una più bassa del 30% rispetto a chi è sposato. Più banalmente, una donna ha il 52% di chance in più di un uomo di avere una vita più lunga. Uno studio di qualche anno fa di due ricercatori del Tesoro ha inequivocabilmente dimostrato che il concetto di speranza di vita non è affatto lo stesso per tutti. E non solo perché molti lavori espongono più di altri al rischio di mortalità. Quel valore cambia, e anche di molto, in base a sesso, stato civile, reddito, livello di istruzione. Quando però l'Istat calcola la speranza di vita degli italiani, è costretto a fare una media, procedura più che normale. Se non che da 5 anni a questa parte, nel nostro paese, l'età della pensione di vecchiaia è automaticamente legata proprio a quell'aspettativa media di vita. Più sale, più si deve posticipare la pensione. Un bel problema per tutti, ma ancora di più per quelle categorie che restano ben al di sotto del valore medio. L'età pensionabile ha cominciato così a spostarsi progressivamente in avanti con salti che si vanno anche ampliando nel tempo. Nel 2013 3 mesi di attesa in più, 3 anni dopo 4 e dal 2019 addirittura 5, il che significa che tra 1 anno e mezzo si andrà tutti in pensione in vecchiaia a 67 anni. Ecco, di fronte a questa spada di Damocle previdenziale, i due presidenti delle commissioni lavoro, Camera e Senato, cioè Damiano e Sacconi, hanno sentito il dovere di lanciare un appello comune per bloccare o quantomeno rallentare quell'automatismo. Hanno chiesto al governo di intervenire anche la leader della CGIL, Susanna Camusso, che apprezza questa scelta. Dunque, bisogna adeguare all'aspettativa di vita, oppure che è una media inevitabilmente dell'aspettativa di vita, ma questo però porta a chi è sopra e chi è sotto degli scompensi. Ricordo un ascoltatore che proprio qualche giorno fa ci poneva questo problema, dice: la mia famiglia da 3 generazioni non arriva a 70 anni e che aspettativa di vita ho io? Certo, più bassa rispetto alla media, però l'Istat non è che può fare casi particolari. Il tema comunque c'è. Come c'è il tema, ragazzi, questo libro Avanti di Renzi porta ogni giorno la sua pena dal punto di vista delle ricostruzioni storiche. L'ultima è quella della ricostruzione del Letta, stai sereno, e poi dopo 2 giorni Renzi era Palazzo Chigi. Renzi, come racconta Maria Teresa Meli a pagina 2 del Corriere della Sera, in questa ricostruzione del libro dice e scrive che fu soprattutto la attuale minoranza interna del PD, soprattutto Roberto Speranza, a propormi di prendere in mano il timone. Matteo, così non andiamo da nessuna parte, mi disse quando c'era Letta al governo, vai a governare. E anche Napolitano mi invita a cena, allora Presidente della Repubblica, capisco che è deciso di rispondere alle sollecitazioni del PD per un cambio in corsa. D'altronde, scrive, Renzi Letta era in modalità broncio. Ci sono intere carriere costruite sul vittimismo anziché sul risultato, e del risultato di quel governo ricordiamo solo un provvedimento, l'aumento dell'IVA 1 ottobre 2013. Insomma, Renzi dà dei fendenti clamorosi a Letta, che risponde con il silenzio, anche se su Twitter scrive «mi disgusta». E ai suoi collaboratori, racconta il Corriere della Sera con Monica Guerzoni a pagina 3, Letta affida questo commento, pare: «Mi sembra quello di Renzi un caso psicanalitico. Si sta avvitando in una spirale degna di Freud, vuole trascinarmi nel fango, ma lo lascerò rotolarsi nel fango da solo». Capite il clima di ostentata serenità che c'è all'interno del Partito Democratico. A proposito di casi psicanalitici, Mauro Meazza, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno caro Alessandro, stai sereno, mi grazie, viene da dire. Grazie, grazie, sto sereno. Stai sereno, caro Alessandro, molto, mi raccomando. Molto. Stai sereno anche perché finalmente abbiamo il provvedimento che consentirà di pagare la tassa sugli affitti brevi. Bene. Il primo pagamento, segnatelo però, è lunedì. Lunedì 17 luglio, questo qua, quello che arriva. Quello, lunedì 17. È arrivato il provvedimento. Lo trovi naturalmente, trovi la descrizione con anche una serie di spiegazioni utili sugli affitti brevi di questi ultimi mesi nelle pagine di norme e tributi che tu leggerai religiosamente. Ovvio. Ma non è che il provvedimento ce l'avevi lì in quel disordine di giornali, ne parlavamo proprio ieri. Tu lasci sempre lo studio tutto pieno di carte, cartine, cartacce. Sto cercando anche adesso, ma non. Vabbè, ormai l'abbiamo trovato, il provvedimento c'è, ricordati che devi pagare, questo è il senso. Oh, ci sono molte cose, visto che abbiamo cominciato parlando di affitti, ti dico anche che sempre dalle pagine norme e tributi di oggi del Sole 24 Ore avanza il DDL sulla concorrenza, sono 3 anni che più o meno avanza lentamente, ma avanza. Adesso c'è una importante novità che potrà riguardare gli alberghi, potranno offrire sconti sui loro siti superiori a quelli che vengono offerti dai comparatori. Ma tutto questo nel dettaglio, sappi poi che oggi parliamo molto di energia. Mm-hmm. Perché da una parte c'è l'efficienza energetica delle industrie, della pubblica amministrazione, che è inferiore, ma c'è anche questo rischio di blackout, perché come ti sarai accorto fa molto caldo. Sì. Vabbè, tu esci presto al mattino, magari prendi più il fresco, però sappi che fa molto caldo durante il giorno e quindi stiamo utilizzando molta energia per i condizionatori, ad esempio. Allora, ti avvertiamo sulle pagine di Imprese e Territori che tu avrai già letto, naturalmente, in modo compulsivamente. Vabbè, insomma, lasciamo stare, va. Oh, sai che c'è il provvedimento sui furbetti del cartellino? Mm-hmm. Te l'avevo segnalato, è arrivato lunedì scorso. Ecco, ne torniamo a parlare, spieghiamo come funzioneranno allora questi licenziamenti per chi viene colto in flagranza. Molte altre cose ti vorrei dire, ma telegraficamente, vorrei introdurre questo nuovo avverbio, sì. Ti segnalo che essendo giovedì c'è Casa 24 e anche lì parliamo di energia, impianti fotovoltaici, importante specialmente per il residenziale, cioè per le case private. Poi ti segnalo una importante sentenza del Tribunale di Ancona che dà ragione a un padre separato e dice, beh, però non si può che la madre se ne va con i figli e dopo il padre non li può più vedere. Consiglio la lettura, so che il tema è sempre molto sentito. Lo trovo sensata messa così. Ma sembrerebbe una sentenza sensata, ne riferiamo infatti. E poi ci sono gli esuberi delle partecipate, mm-hmm. Perché si calcola che essendoci una riduzione in vista si arriverà a 150.000 esuberi, che non sono proprio pochissimi. Accidente. Infine, da Finanza e Mercati, che tu già hai letto avidamente, molte cose si potrebbero dire, ma te ne segnalo una. Google ha trovato un giudice in Francia che gli ha dato ragione. Non siete una stabile organizzazione, le tasse che avete pagato fin qui vanno bene. Vedremo, è un punto a favore di Google in questa lunga, lunghissima partita. caro Alessandro, che tu stai sempre sereno, mi raccomando. Sempre. Invece, cari ascoltatori, traffico! Alessandro Milan, la step la step calda adoption dell'informazione. Dai. Oh, ce l'abbiamo fatta. Allora, purtroppo l'Italia brucia, questo è il titolo che trovate per esempio in apertura del Giorno. Ci sono situazioni in Italia, a San Vito Lo Capo addirittura 700 turisti in provincia di Trapani li hanno evacuati via mare dal resort. La situazione è difficile anche sul Vesuvio. Ma l'articolo più interessante l'ho trovato a pagina 7 del Fatto Quotidiano, Giampiero Calapà. Con la legge Madia restano a terra 28 elicotteri su 32, cioè 32 elicotteri ieri, 28 a terra. E come mai? Mezza Italia brucia, il sud è in fiamme, ci sono gli mezza Italia brucia mi sembra un po' esagerato. Comunque, ci sono gli effetti nefasti della riforma Madia, scrive il Fatto Quotidiano, che dal 1 gennaio ha ripartito mezzi, strutture e soprattutto competenze del Corpo Forestale dello Stato, accorpato con Arma dei Carabinieri e Vigili del Fuoco. Nell'intervento sugli incendi boschivi, il ruolo di azione e coordinamento dei forestali è stato di fatto in larga parte disattivato, perché dei 32 elicotteri degli ex forestali, 16 sono stati assegnati ai vigili del fuoco, 16 ai carabinieri, quest'ultimi esonerati dal servizio antincendio. Quindi rimangono già dimezzati gli elicotteri. Dei 16 che si potrebbero utilizzare, quelli ora dei pompieri, ieri e nei giorni scorsi ne erano in volo solo 4. Due gru volanti, gli Ericsson S64 con base a Napoli, Capo di Chino in Sicilia, e due Augusta Bell 412, di cui uno ancora con la livrea dei forestali, con base a Roma e Pescara. Gli altri 14 sono a terra per vari motivi, tra cui manutenzione e problemi legati a mancate certificazioni tecniche. Il Corpo dei Vigili del Fuoco non ha ancora sottoscritto contratti per la manutenzione degli S64, quindi se uno dei due dovesse avere un guasto domani rimarrebbe a terra chissà per quanto tempo. Questa è la situazione, cioè non ci sono gli aerei. Oh, vi segnalo invece sulla Stampa una pagina, lo scontro sul credito, come Unipol ha bloccato la riforma delle RC Auto. Gianluca Paolucci fa un'inchiesta perché la Stampa ha avuto accesso alla corposa documentazione del lavoro di lobbying della compagnia bolognese, che è stato particolarmente pressante e ha avuto successo, visto che la riforma RC Auto è stata stralciata. Si legge da un SMS che il 28 gennaio 2014 il presidente di Unipol Stefanini scrive a Stefano Genovese, responsabile relazioni istituzionali del gruppo: Stefano, meno scrivi che sono i nostri emendamenti e meglio è. In quei giorni è in discussione in Parlamento un provvedimento che sta molto a cuore al gruppo, la riforma dell'RC Auto, una riforma contenuta nel decreto Destinazione Italia e partorita dopo un lungo lavoro di consultazioni dal governo Letta. L'interesse non è casuale, Unipol è leader di mercato in Italia nel ramo danni. Sono passati due lustri dalla scalata di Unipol a BNL, l'infelice battuta di Piero Fassino, abbiamo una banca. Da allora sono cambiati gli interlocutori, è cambiato anche il partito, ma il rapporto della compagnia assicurativa delle Coop con la politica è ancora ben saldo. E qui si racconta appunto nei meandri il lavoro di lobby, come Unipol ha bloccato la riforma dell'RC Auto. L'inchiesta di Gianluca Paolucci la trovate a pagina 7 della Stampa. Invece lo Stato ha bloccato questo agricoltore. È una storia di burocrazia, una storia incredibile, raccontata da Marco Gasperetti sul Corriere della Sera, pagina 21. L'agricoltore che ha ripulito da erbacce, sterpaglie l'isola del Giglio per farne delle vigne, ha messo delle viti pregiate, fa un vino che vendiamo in tutta Europa, Stati Uniti e Giappone, racconta lui con orgoglio, ma non aveva chiesto il permesso per togliere le sterpaglie. E in un parco protetto anche le sterpaglie sono protette. Il Tribunale di Grosseto gli ha spedito un decreto penale, dunque senza dibattimento, per il reato di lottizzazione abusiva a scopo edilizio. Francesco Romano Carfagna deve pagare al più presto 8.000 euro, che possono essere ridotti a 5.000 se fa anche 11 giorni di carcere. Perché la legge che il giudice ha applicato prevede che se un terreno fa parte di un parco naturale, come nel caso del vigneto di Carfagna, 3 ettari, non si possono togliere senza permesso neppure le erbacce. E lui ha tolto le erbacce. Non si fa! Non si fa! L'agricoltore condannato per aver pulito l'isola del Giglio. Non aveva chiesto il permesso di togliere le sterpaglie. La storia di Romano, Francesco Romano Carfagna. Vabbè, siamo alla carta costa. Articolo più inutile scovato sui giornali. Il Giorno racconta a mezza pagina gli amori senza età. Vai a capirli. Vincent Cassel, che si è messo con una 19enne, modella. Vai a capirli i divi di Hollywood che cercano le ragazzine ventenni per fidanzarsi. Mezza pagina per raccontare come mai siamo tutti pazzi per le baby fidanzate! Ma chi se ne frega!